Palla Spicchi con Carlo Genta. Entriamo in onda, curiosamente, proprio mentre sta arrivando, con notizie di basket, naturalmente da poco ne parleremo, però mentre sta arrivando la 50 km olimpica, in cui c'è Giorgio Di Centa che difende il titolo di Torino. Vicino a me Dario Ricci, ciao Dario. Sì Carlo, vediamo Teichmann che sta attaccando. Entriamo subito in cronaca perché mancano sui 500 metri praticamente all'arrivo, 2:04:30 il tempo attuale. Gruppo che è stato sempre compatto intorno alle 30 unità, poi a scremarsi sull'attacco dei tedeschi, e ora Teichmann che allunga, ma Di Centa lo vediamo adesso nelle posizioni di rincalzo di questo gruppo di testa che sta entrando proprio sul rettilineo finale. Il tedesco Teichmann davanti a Norduk, vado a vista perché la volata è a ranghi serrati, ma è proprio Teichmann che sembra aver preso qualche metro di vantaggio. Ancora sono proprio sul rettilineo finale, la gara che conclude di fatto il programma olimpico ed è l'equivalente della maratona, lo ricordiamo. Giorgio Di Centa, campione in carica di Torino 2006, ora Teichmann che entra sul rettilineo, prova ad allungare davanti a Norduk, il grande favorito della vigilia, straordinario anche il norvegese che allunga proprio, eccolo qua. Eccolo qua Norduk. Ah no, non lo scommetto a questo punto perché è quasi sicuro. Norduk di rimonta su Teichmann, Norduk allunga, adesso un paio di metri di vantaggio proprio sul rettilineo. Eccolo, Norduk oro, Teichmann secondo, terzo Olsson, quarto Angerer. E insomma Giorgio Di Centa fuori dal podio, poi tutti gli altri, Kershaw, il canadese, Verpalul, Richardson. Arriva adesso Di Centa. Eccolo Di Centa, orgogliosa la sua prova perché veramente fino agli ultimi due chilometri Giorgio è stato nel gruppo di testa, poi alla fine la tirata di Teichmann, eccolo undicesimo alla fine a 13 secondi e 5, 37 anni, beh tanto di cappello per la gara di testa che è riuscito a fare, ma sì, niente da fare, l'oro di Torino rimane nel palmarès, ma questa volta va al collo di Norduk, l'oro olimpico più prestigioso del fondo. Ci resta la medaglietta, medagliona di ieri di Razzoli e pochissimo altro da questa Olimpiade. Tra l'altro Norduk è insomma un personaggio molto interessante, un po' murignesco se vogliamo, perché insomma, lui molto giovane è un idolo in Norvegia, è uno di grande personalità. E girava con la foto di Teichmann, sai che girava con la foto di Teichmann ovunque andasse, nel portafoglio la appendeva allo specchio tipo Rocky, no? Non mi può battere allo sprint, infatti questo non lo batte nessuno. Teichmann, Norduk campione olimpico, dunque il norvegese. Ma adesso parliamo di basket, cosa per cui siamo qui. Quarta giornata di Serie A. Ieri Treviso che batte Avellino, oggi c'era una partita, insomma il remake dell'ultima finale scudetto, è finita come l'ultima finale scudetto, cioè con una vittoria di Siena sull'Armani Milano. Possiamo parlare rugbysticamente di un'onorevole sconfitta per Milano che è partita molto male, poi tra poco ci facciamo raccontare questa gara, poi è tornata a contatto, però quando serviva stringere e sprintare, quando serviva a tirare fuori a cattiveria, insomma, Milano si è un po' inchinata davanti alla Montepaschi Siena. Finisce 80-65, quindi più 15 per la Montepaschi, molto stanca. E con, tra poco sentiamo anche Pianigiani, con la partita di Eurolega decisiva al Maccabi Tel Aviv, già chiaramente nel cervello. C'è un confronto a distanza molto importante invece in zona salvezza, con Cremona che ha battuto Biella 75-68, 75-68, e Ferrara che aveva battuto Cremona una settimana fa, riaprendo la volata per la salvezza, Ferrara che ha perso a Roma 84-73. Poi c'è Bologna che batte Teramo 77-67 e infine Montegranaro che fa il colpo a Varese 88-74. Questi risultati, e Dario Ricci ci dà una classifica invece. Siena quota 38, come al solito capolista solitaria a punteggio pieno, Caserta 26, Milano e Bologna e Montegranaro a 24 punti, poi a 22 c'è Avellino, a quota 20 un terzetto, Cantù, Treviso e Roma, seguito da un altro terzetto però staccato di 4 punti, a 16 punti appunto troviamo Teramo, Varese e Biella, 14 per Pesaro, 12 per Cremona, 10 per Ferrara, Napoli a meno 8. Dunque, per chiudere il capitolo numeri vi do anche quelli della Lega 2, Latina batte Pistoia 77-72, quindi Scafati che batte in volata Iesi 77-75, confronto diretto nelle zone basse della classifica. Invece Reggio Emilia batte Casal Pusterlengo 95-79, Brindisi batte Vigevano 105-86, Pavia batte Venezia, un altro spareggio per la salvezza, 76-72, Imola più 5 su Veroli 80-75, Rimini che si arrende, ormai rottura prolungata, si arrende a Casale Monferrato in casa 85-64 e Sassari che batte Udine di misura 75-69. Torniamo al piano di sopra e torniamo a Siena-Milano. Massimo Solazzini, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, ho qui con me uno dei protagonisti di quella fase un po' particolare in cui Milano si è rifatta sotto. Abbiamo qui Thomas Ress, che ringrazio intanto per la pazienza con cui ha atteso il collegamento. Allora, c'è stato questo Milano che si è riaffacciata in questa fase finale, la fase in cui Siena è andata anche un po' sotto con le marcature, 33% dell'ultimo quarto al tiro. Come l'avete vissuta in campo? Beh, ho fatto qualche palla persa di troppo, qualche tiro affrettato e loro hanno preso fiducia con qualche contropiede, qualche palla rubato. Diciamo che comunque siamo rimasti abbastanza calmi, tranquilli, sapevamo che di giocare in una certa maniera per poi riuscire a vincere la partita. Pierregiani poco fa in conferenza stampa ha detto due squadre che si affrontano adesso con un aspetto molto diverso da quello che avevano qualche mese fa e probabilmente diverso da quello che avevano tra qualche tempo, quando si rivedranno probabilmente. Quanto è una fase di lavoro in corso questa per Siena? Beh, sicuramente loro gli mancano tanti giocatori, a noi invece ci manca un po' di allenamento, perché è da prima della Coppa Italia che non riusciamo a fare un allenamento come si deve, perché tra tre partite e Coppa Italia, poi siamo andati a Madrid, siamo tornati venerdì, siamo riusciti a preparare la partita soltanto sabato contro Milano, sicuramente un po' le gambe magari ci pesano, non siamo così lucidi in campo o così perfetti come vogliamo essere. Questo era Thomas Ress, studio. Massimo, poi Massimo? Sì, certo. Ce la fai a fermare un attimo e chiedere quanto pesa il Maccabi nella testa? Quanto pesa il Maccabi nella vostra testa in questo momento, Thomas? Beh, noi sappiamo che dobbiamo andare lì per fare il risultato, vincere, perché arrivare secondi comprometterebbe sicuramente arrivare alle Final Four. Andiamo lì, sarà un ambiente ostico, come sempre giù a Tel Aviv, con una squadra sicuramente con tante opzioni in difesa, tra la zona, la matchup, la uomo. Andiamo lì per giocare, essere aggressivi e speriamo di condurre la partita. Grazie, bocca al lupo, Thomas. Massimo, come hai visto Milano invece? Beh, Milano meglio di quello che ci si poteva aspettare, anche se pochi istanti fa Bucchi in conferenza stampa si è detto molto molto arrabbiato, ha preannunciato un martedì pesantissimo la ripresa degli allenamenti, perché soprattutto nel secondo quarto ha visto distrazioni che non voleva ammettere, ha visto troppe palle perse, ha visto questo sì una fase di ripresa importante nel secondo quarto, però era tutt'altro che soddisfatto. Va detto però che ci sono dei dati nuovi importanti, ad esempio Mike Hall che torna in starting five e in certi momenti è apparso se non altro un tentativo di possibile nuovo uomo squadra per questa Milano, che come dicevamo e avete detto anche dal studio credo è una squadra in lavoro in corso, anche oggi aveva assenze importanti, ancora molto da costruire. Effettivamente però è un dato di fatto che una squadra che si riaffaccia sotto Siena nella fase finale della gara dopo essere stata sotto i 15 quest'anno vorrei dire al Palascavo non c'è vista molto spesso. Sì, però se siamo alle prove tecniche di trasmissione il 28 di febbraio insomma mi sembra un po' tardino. Per chiudere su Siena, Massimo, è chiaro che oggi si giocava contro Milano, ma il pensiero, tra poco sentiamo Pierigiani, è appunto come dicevamo prima con Thomas Ress a Tel Aviv. Guardandolo in faccia, hai l'impressione di una squadra che ci crede ancora o invece di una squadra che ha sentito troppo duramente il colpo della partita persa a Madrid? Quanta benzina ha ancora Siena da spremere? Allora, potrei sintetizzare dicendo che forse il nodo sta tutto in o perlomeno uno dei nodi fondamentali sta tutto in T-Mac. Terrell McIntyre oggi a malapena non si è visto, usato con parsimonia da Pianigiani, stesso minutaggio di Zizis, raramente ha scelto di andare al tiro è l'uomo che probabilmente è mancato assieme ad altri nell'ultimo impegno pesante appunto di Coppa. È lui probabilmente l'interrogativo simbolo in questo momento. Ci sono giocatori che danno segno di crederci molto. Eze è stato risolutivo nella fase appunto un po' concitata di questa gara. L'ambiente ci crede, però avete sentito Thomas Vess, molto dovrà giocarsi, soprattutto in quanto tra testa e gambe si riuscirà a mettere in pista da martedì mattina in poi, martedì mattina, perché di buon'ora la Montepaschi parte alla volta di Israele. Grazie Massimo Solazzini, grazie di avermi sentito anche Thomas Vess. Adesso invece vi faccio sentire cosa ha detto subito dopo la partita su questo impegno europeo Simone Pianigiani. Ah sì, già partiamo domani sera per muoversi a Roma e poi andare via martedì mattina presto. È chiaro che un altro nella stanchezza che tu dici non è il miglior momento per andare a giocare in un campo come quello e poi una squadra che fa anche una pallacanestro difficile. Noi abbiamo fatto, secondo me, per i problemi che avevamo, un grande periodo in questo momento, distribuendo le energie ma riuscendo a portare in fondo la Coppa Italia, facendo una grande partita qui menomati con Madrid, facendola a Madrid per tre quarti. Tutto quello che abbiamo l'abbiamo messo finora, continueremo a farlo anche a Tel Aviv, non so se basterà perché uno dei campi, lo sappiamo, insomma, più difficili e anche più difficili dal punto di vista della forza mentale per rimanere in partita, però io credo che la mia squadra la forza mentale ce l'abbia, se avremo un po' di energie e riusciremo a non essere in riserva potremo giocarcela anche lì. D'altra parte questo è un girone dove così fai un momento in cui perdi qualcosa a pochi minuti dalla fine, Madrid era fuori dall'Eurolega, oggi siamo messi noi molto male, ma insomma con squadre di quel genere ci sta. Noi direi che fino adesso abbiamo veramente fatto il massimo, anche i miei giocatori per come so che stanno non posso chiedere di più e non posso rompergli di più le balle. Io so che quello che hanno dentro lo metteranno anche lì e poi lo metteranno anche l'ultima con l'Efes e a quel punto vedremo. Palla spicchi. Allora, diamo un'occhiata insieme alla vittoria di Bologna della Virtus su Teramo. Sì, 77-67, che è un risultato acquisito solamente nell'ultimo quarto, visto i parziali 19-16, 36 pari, 56-52, e poi l'allungo decisivo di Bologna pesa nel tabellino della Virtus. La prova di David Moss, 21 punti in 34 minuti, 6 su 10 da 2, 1 su 3 da 3, 6 su 8 ai liberi, 5 rimbalzi, anche 2 recuperi e 3 assist. Buona notizia per Bologna, ma anche in prospettiva futura buona notizia per Siena, Carlo, visto che è la proprietaria. Esattamente, esattamente. E poi gli 11 punti in 31 minuti di Andre Collins, 3 su 3 da 2, 1 su 4 da 3 punti, 4 perse, 5 recuperi, anche 3 assist, quindi una prova intensa per il regista virtusino, 13 di Sani Chidze con 7 rimbalzi e poi 8 punti per Dusan Vukcevic e 10 punti in 22 minuti per Leroy Hard. Per quanto riguarda Teramo, 13 punti per Ryan Hoover, frutto di un 3 su 6 da 3 punti, appena 7 in 21 minuti per Bobby Jones, questo americano che ancora non riesce a fare la differenza a Teramo malgrado le grandi aspettative che l'hanno accompagnato in Abruzzo, 14 in 32 minuti per Valerio Amoroso e appena 5 punti in 30 minuti per Giuseppe Poeta, che sicuramente non sta attraversando uno dei migliori periodi di forma, Carlo. 12 punti in 37 per Drake Diner, che aggiunge anche 7 rimbalzi e 4 assist, sempre più giocatore mister utilità, direi, Diner, no? Sì, sì, assolutamente, però insomma un poeta da 5 punti e da 10 di valutazione è comunque un giocatore che non incide come faceva in passato su Teramo, in questo momento in particolare. Andiamo a Roma, prima dicevo di questa strada per la salvezza, c'era il confronto diretto a distanza dopo quello sul campo tra Ferrara che giocava a Roma, Cremona che ha battuto Biella. Andiamo a sentire della partita di Roma, Fabrizio Fabbri. Sì, questa volta diciamo Roma ha fatto un piacere al suo ex allenatore Attilio Gaia, ha fatto un piacere a se stessa, anche perché la rincorsa del playoff non è una cosa semplicissima. 84-73 sulla Carife Ferrara, in una partita che non è stata assolutamente facile. Roma ha condotto per i primi 30 minuti per poi avere un passaggio a vuoto abbastanza preoccupante con Ferrara che, trascinata da un Jackson eccezionale, 30 punti per lui alla fine con 4 su 7 da 2, 5 su 8 da 3, 7 su 7 ai liberi, insomma una prova assolutamente da sottolineare, è andata in vantaggio per due volte, ha toccato il più 4, è stato Ibi Jaber a caricarsi la squadra sulle spalle, a scacciare via le paure, a consentire poi quel riaggancio e sorpasso al trentesimo, si era sul 57-53, che poi ha consentito a Roma di fare un ultimo quarto dove poi le cose sono andate anche complici i falli dei lunghi della squadra di Valli e un grandi assolutamente opaco ha consentito a Roma di fare, diciamo, un finale abbastanza tranquillo e chiudere quindi con la settima vittoria su 9 partite per il periodo della gestione Boniciolli. Boniciolli in casa al Palalo Automatica è ancora imbattuto. Ha dato solidità comunque alla squadra Matteo Boniciolli, ha dato razionalità alla squadra, l'impressione che stia costruendo qualcosa anche sul mercato, no Fabrizio? Perché l'impressione è che Roma non si giocherà gli eventuali playoff con questo roster. Ma diciamo non è un mistero, volevano Bobby Dixon, si voleva che fosse già in campo da questa sera, ma c'è una regola precisa dettata dalla proprietà da Claudio Toti, che è quella di sfoltire, se non partono almeno due o tre elementi l'arrivo di Dixon è impossibile, tra l'altro Dixon a mercato, quindi il rischio è che magari per Roma l'obiettivo possa diventare un altro, ma Roma sta cercando un playmaker perché di passaporto americano, proprio perché ormai Ibi Jaber è stato spostato con costanza nel ruolo di guardia. Questa sera da playmaker è andato molto bene Jacopo Giachetti, è andato meno bene Luca Vitali, i due si alternano in prestazioni opache e prestazioni eccellenti e quindi non danno magari quelle garanzie che Boniciolli cerca proprio per provare a scalare meglio la classifica adesso, certo, e domani provare magari a portare l'assalto a Siena, che era l'obiettivo che Roma si era prefissa all'inizio della stagione, poi sappiamo tutte le problematiche che ci sono, certo, state, che hanno portato anche all'addio di Gentile. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, Fabri, un saluto. Alla prossima. Dunque diamo invece un'occhiata a Cremona, Biella, con Cremona che vince. Sì, vince nettamente, partita aperta solamente nel primo periodo, 20 pari, poi l'allungo di Cremona 44-33, 62-51 fino al 75-68 finale. Nel tabellino dei cremonesi spiccano le prestazioni di Troy Bell, 22 punti in 33 minuti, 3 su 9 da 2, 4 su 5 da 3, 5 rimbalzi per un totale di 22 di valutazione, stessa valutazione per Maurizio Aguiar, 14 punti in 23 minuti con un 4 su 5 da 2, 6 su 6 ai liberi, 6 rimbalzi e anche 3 assist. Da segnalare anche la prova dell'esordiente Marco Milic, 8 punti in 17 minuti. Invece nel tabellino di Biella spicca soprattutto, direi, il tabellino raggranellato da Capitan Soragna, 0 punti in 20 minuti e meno 8 di valutazione. Quando Soragna gioca così, difficile uscire dal campo con i 2 punti per i biellesi, 14 invece per Aradori, 6 su 12 da 2, 0 su 3 da 3 punti, Biella ha tirato appena col 12% da 3 e la prova di Pervis Pasco, 5 punti in 34 minuti, 12 rimbalzi sì, ma 1 su 8 ai tiri liberi, in questo sì davvero sembra Shaquille O'Neal. E anche Guillermo Diaz che non riesce a dare praticamente nulla a Biella, 10 punti, 6 di valutazione, insomma abbastanza trasparente ancora una volta la prova di Guillermo Diaz. Tanto per chiudere in bellezza, Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Flavio, ho sentito te, Davide Pessina, avete commentato la vittoria di la solita vittoria di Siena su Milano. La vostra analisi, c'è stato un momento in cui Milano, dopo essere partita malissimo, poteva infilare i denti nel collo della partita? Non ne ha avuto l'energia, la forza, la capacità o cos'altro? Beh, il momento teoricamente c'è stato, è arrivata con spinta alla fine del terzo quarto, meno 6, inizia il quarto periodo e Siena sbaglia 6 dei primi 7 tiri e Milano ha sbagliato i primi 6 e ne ha sbagliati 14 dei 17 del quarto periodo, ha fatto 7 punti in totale e alla fine ha perso di 15. Tecnicamente c'è stata la chance, se andiamo a interpretare le facce onestamente non c'è mai stata la chance, non è la solita per lo scarto, per lo sviluppo e per il fatto che effettivamente c'era una possibilità che oggi Siena perdesse, ma per certi versi è ancora più solita delle solite perché è veramente una vittoria di una squadra che è abituata a vincere, che vince a memoria. Cercasi squadra disperatamente il 28 di febbraio, torna Oli in quintetto. Cosa cerca Milano in questo momento? Al di là delle assenze ormai croniche, storiche, Petravicius, oggi non c'era nemmeno Becirovic, insomma l'area di Milano non fa benissimo. però insomma, Milano cosa sta cercando, Flavio? Non è facilissimo dirlo, devo dirti che quando probabilmente avremmo potuto porci questa domanda se è fatto male Finley, il giocatore che non è sostituibile, o perlomeno che non è stato sostituito, nel senso che era il giocatore che aveva in mano le chiavi della squadra, sì. Mordente e Bulleri possono giocare in quella posizione, ma non è la stessa cosa. Becirovic comunque mi sembra un giocatore che è venuto per tappare un buco momentaneo e quindi non è una scelta definitiva. Per cui questo è il punto di domanda che rimane nell'analisi. Per il resto, che cosa cerchi non lo so. So che ha trovato un livello medio che serve contro gli avversari medi, contro gli avversari di punta in Europa o in Italia, anche se non c'è il plurale in Italia, c'è il singolare, di sicuro non basta. Per chiudere, tu parlavi prima di Faccia di Milano, quella di Siena in prospettiva Tel Aviv, come ti è sembrata? Mi è sembrata stanchissima, tesa, che può essere un problema, o meglio, potrebbe essere un problema se per esempio dovessero giocare in casa col favore del pronostico. Andando a Tel Aviv non col favore del pronostico, lì mi aspetto una prova di particolare orgoglio, però è una squadra che in questo momento gioca su un equilibrio fisico e prima ancora che fisico, psichico, piuttosto tenue, quindi potrebbe tirar fuori una partita di grandissimo orgoglio e fare un grande colpo, così come avere grosse difficoltà. Sono molto curioso di vedere. E venerdì avremo il nome dell'assassino e ne parleremo in Pallaspicchi. Grazie. A voi. Buon viaggio di ritorno, Flavio Tranquillo. Chiudiamo rapidamente dandovi qualche altra informazione sull'ultima partita che resta da esaminare del pomeriggio, Varese-Montegranaro. Sì, 74-88, altro splendido successo per i marchigiani, trascinati dalla mano stavolta calda di Marquinhos, 19 punti in 29 minuti, con un 5 su 10 da 2, un 2 su 6 da 3, e poi soprattutto dal solito grande Greg Brunner sotto canestro, 12 punti e 15 rimbalzi. Non bastano invece a Varese i 15 punti di Jack Galanda e anche la prova intensa offensivamente parlando dei professor Childress, 14 punti in 21 minuti, i solito abituali minimi 4 assist che la casa riesce a sfornare ad ogni partita, ma stavolta appunto non bastano per uscire dal Palamasnago con 2 punti. Stavo guardando mentre parlavi le cifre degli italiani di Montegranaro, che sono stati anche giustamente elogiati in questa stagione come costruzione di squadra, come italianità della rosa, però vedo Antonutti 3 punti in 6 minuti, buona partita di Cavaliero 10 punti in 23, cosa c'è? C'è Lechtaler che ne fa 4 in 9 minuti e Cinciarini, uno dei volti nuovi di questo campionato, 9 in 14 minuti. Riescono a portare tante piccole cose, ma nessuno di loro è quasi mai decisivo, risolutivo. Benissimo, adesso chiudiamo qui l'appuntamento con Pallaspicchi, chiudiamo qui la pagina sportiva della domenica. Vi lascio a Dario Ricci per Juventus-Palermo in serata 0-0 dopo 9 minuti e 38 secondi di gioco. Domani alle 2 c'è Gigi Garanzini, con me ci sentiamo venerdì per Pallaspicchi alle 2.